Suona macchina del tempo, suona, suona e tutto cambierà. Voglio indietro la mia noia, la mia stanza, la felicità. Casche vuote, motorino, calci in culo, testa in giù, un ghiacciolo al tamarindo, patatine, merendine blu. Astronauta tra le stelle, fammi un fischio e salgo su, porto un cono alla marena, un chinotto e merendine blu. Passerà come un passo a luce bassa, fa una smorfia e poi inciamperà. Corre, corre, piano, corre, figurine a testa in giù, palla sgonfia tra le spine, razzo brucia e poi ritorno su. Corre, corre, piano, corre, soldatini a testa in giù, porto un cono alla marena, un chino e merendine blu. Canta macchina del tempo, canta e tutto arriverà. Voglio indietro la mia noia, la mia stanza, la felicità. Corre, corre.